Savonarola, il frate che sorteggiò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, quando leggere un libro era alla portata di pochi, visto l'endemico analfabetismo e la scarsa reperibilità dei testi, tanto che si faceva di tutto pur di leggerne uno, e lette oggi da me, quando leggere un libro è alla portata di tutti, vista l'alfabetizzazione di massa e l'ubiqua reperibilità dei testi, ma si fa di tutto pur di non leggerne uno. D'altra parte, leggere e non intendere è come cacciare e non prendere. Serio, capitolo 32, Livorno-Venezia 2-0. Il giorno 30 di ottobre entrava in città la miracolosa immagine di Santa Maria dell'Impruneta. Una moltitudine immensa l'accompagnava e già mai i fiorentini non avevano dimostrato una devozione più sincera. La gente procedeva mesta e silenziosa, le limosine erano larghissime, la tristezza stava dipinta su tutti i volti e nella faccia del popolo minuto si vedevano i segni della fame già sopportata e il timore di stenti maggiori. La processione era giunta in Por Santa Maria quando un messaggero, entrato per la porta a San Frediano e passato sul ponte alla Carraia, veniva lungarno correndo a cavallo con un ramo d'olivo in mano per andare al palazzo dei signori, ma imbattutosi nella folla si trovava da ogni parte circondato e afferrando il cavallo per la briglia tutti domandavano le nuove di Livorno. Erano finalmente all'improvviso e quasi per incanto arrivati da Marsiglia i tanto aspettati soccorsi di uomini e di grano. Le navi giungevano innanzi a Livorno spinte da un vento così impetuoso di libeccio che non s'erano appena viste sul mare e che già entravano nel porto, né i veneziani avevano potuto arrestarle perché dalla forza di quei medesimi venti erano stati costretti a riparare sotto la Meloria. Non si potrebbe mai con parole descrivere la sfrenata gioia del popolo. Il messaggero veniva per tutto accompagnato con altissime grida. Le sue parole ripetute di bocca in bocca si amplificavano ed esageravano. La città era quasi in un istante tutta piena della lieta novella. Le campane suonavano a festa. In tutte le chiese si rendevano pubbliche e solenni grazie del miracoloso aiuto. Invero, agli arrabbiati stessi pareva che il Signore avesse voluto salvare la Repubblica dalla imminente rovina e che il Savonarola fosse stato questa volta senza dubbio profeta. Il suo nome e la sua autorità ne crebbero a mille doppi e il popolo minuto andava ora gridando «Le prediche del frate ci hanno anche questa volta salvato!» Il soccorso non era in verità gran cosa. Delle genti dai mercatanti assoldate non erano voluti partire che 600 uomini e delle navi già pagate, una parte quando furono in alto mare, presero diverso cammino per speranza di maggiori guadagni e invece naufragarono, onde si era poi sparsa la voce che i soccorsi non sarebbero altrimenti venuti, e adesso non erano entrati nel porto che 5 navi e 2 galeoni carichi d'uomini e di grano. Ma il modo ne era stato così inaspettato, il tempo così opportuno, che l'effetto ne fu grandissimo non solo in Firenze ma anche in Livorno, dove gli animi si riempirono di tanta speranza che, fatto per allegrezza fuoco con tutte le artiglierie, uscirono ad assalire i pisani e contemporaneamente andarono dall'altra parte a rinforzare la bastia del ponte a stagno che già minacciava cadere nelle mani del nemico. Ivi trovarono gli imperiali così spaventati dal gran rumore delle artiglierie e dalla voce che aveva anche fra loro esagerato assai la forza degli aiuti arrivati, che li misero in fuga con grande uccisione di gente e con guadagno non piccolo di prigionieri e cavalli. Intanto nel primo giorno di novembre il Savonarola saliva di nuovo sul Pergamo e, pigliando occasione dalla inaspettata fortuna, esaltava la misericordia di Dio, inculcava il bisogno di tornare alla religione, correggere i vizi, fare continue orazioni e non fidare in altri che nel Signore. Cercava ancora di moderare la soverchia allegrezza del popolo. Non bisogna lasciarsi vincere così facilmente dalla gioia e dal dolore. Non bisogna abbandonare le provvisioni umane. Bisogna più che mai provvedere alla guerra. Il 2 novembre, giorno dei morti, fece un'altra predica che ebbe grandissimo successo e fu sull'arte del ben morire. Diceva che il vero cristiano dovrebbe tenere sempre presente l'idea della morte e che una vera considerazione di essa condurrebbe ognuno alla buona vita. Con assai vivi colori descriveva lo stato dell'animo nostro in quell'ora suprema, faceva un'analisi ingegnosa e minuta di tutte le passioni che ci danno assalto in quel momento di prova. «La morte, egli diceva, è il momento solenne della nostra vita. Il diavolo ci dà allora la battaglia estrema. Egli è come se esso giocasse sempre a scacchi con l'uomo e aspettasse il momento della morte per dargli lo scacco matto. Chi lo vince in quel punto vince la battaglia della vita. Noi, o fratelli, non viviamo in questo mondo se non per imparare a ben morire». proponeva a ognuno di tenere al suo letto un quadro che gli rammentasse l'ora e il pericolo della morte. Descrisse minutamente questi quadri fantastici, cui il popolo prestava un'attenzione grandissima e che vennero nelle molte edizioni di quella predica incisi da Sandro Botticelli e da altri principali artisti di quel secolo. Ne lasciava quel giorno di dare incoraggiamento al popolo, incitarlo a mantenersi unito e provvedere ai bisogni della patria. Dopodiché tornava subito nel suo silenzio, dolendosi già d'aver dato al Papa qualche pretesto di nuovi lamenti. Infatti quasi non era giunta a Roma la notizia dei soccorsi arrivati a Livorno e della prima predica del frate, che un altro breve, in data del 17 novembre, veniva indirizzato a tutti i domenicani di Toscana. Ora non si trattava più di riunire San Marco alla congregazione lombarda, ma invece separarlo da essa insieme con tutti i conventi di Toscana e di Roma, per fondare una nuova congregazione tosco-romana con un vicario suo proprio, il quale verrebbe, secondo gli statuti domenicani, eletto ogni 2 anni dai vari priori della nuova congregazione, senza però derogare con ciò all'autorità del vicario generale di Roma. Per il primo biennio il Papa stesso nominava come nuovo vicario il cardinale di Napoli, stato sempre amico di San Marco e del Savonarola. Così il Borgia, ripigliando di nuovo la questione dei conventi, cercava destramente evitare tutte le obiezioni che il Savonarola aveva fatte nella sua lettera. Non rimetteva la sua causa al vicario lombardo, non riuniva 2 congregazioni fra loro nemiche, sceglieva egli stesso un vicario, stato sempre amico di San Marco, e finalmente, così dice il breve, egli stesso si dava opportunità di allargare la nuova riforma a tutta Toscana e allo Stato romano. Ma questa non era che l'apparenza, la sostanza delle cose era invece assai diversa. Una volta sottoposto il Savonarola all'autorità del nuovo vicario, che dipendeva sempre dal generale dell'ordine in Roma, egli avrebbe perduta quella sua indipendenza per cui tanto aveva bramata la separazione dai frati lombardi, quell'imperio sopra i suoi frati che gli dava tanta autorità in Firenze, e poteva d'ora in ora essere obbligato a partire per qualche altro convento, il che in fondo era sempre la mira del Papa. Inoltre egli vedeva assai chiaro che nella nuova congregazione il convento di San Marco, stretto in mezzo a una moltitudine d'altri conventi, quasi tutti gelosi o nemici, ben lungi dal potere in essi infondere la sua riforma, ne sarebbe stato invece assai facilmente oppresso. Per tutte queste ragioni, in luogo di obbedire, il Savonarola prese nuovamente in mano la penna e scrisse la sua Apologia della congregazione di San Marco, nella quale, non più rispondendo al Papa ma dirigendosi invece al pubblico, assumeva un linguaggio assai franco e ardito. «Io non mi fermerò», così egli diceva, «a confutare le accuse che mi vengono fatte circa la dottrina, perché già vi ho tante volte risposto, ma io rispondo al comando che ora mi è fatto di riunirmi alla nuova congregazione, e innanzi ogni altro questo non dipende solo dalla mia autorità, ma dall'arbitrio ancora di 250 frati, i quali tutti hanno scritto al Papa in contrario, e io non posso né voglio contrastare al loro proposito, che mi par giusto e onesto». E qui veniva adducendo le sue ragioni per dimostrare come quella unione avrebbe corrotta e rilasciata la severità della regola di San Marco, con danno gravissimo di tutti loro, ma specialmente dei giovani che formavano ora la massima parte di quel convento. «Questa unione adunque è impossibile, irragionevole e dannosa, e i frati di San Marco non debbono esservi obbligati, perché i superiori non possono comandare contro alla Costituzione dell'Ordine, contro alla carità e al bene delle nostre anime. Bisogna dunque supporre che essi vengano da false informazioni ingannati e resistere intanto ad un comando che è contrario alla carità, non lasciarsi atterrire da minacce o scomuniche, ma piuttosto esporsi alla morte che sottomette a quel che sarebbe veleno e perdizione delle anime. Quando la coscienza ripugna al comando ricevuto dai superiori, bisogna prima resistere ed umilmente correggere, il che noi abbiamo già fatto». Ed in questo modo, dopo un'assai breve tregua, il Savonarola si trovava di nuovo in aperta guerra col Papa. Intanto, dopo quel primo successo degli inaspettati aiuti, peggioravano di nuovo le cose in Livorno, e se non fosse stata la continua gelosia fra il More e i veneziani, già sarebbe da un pezzo venuta la fine dell'assedio. Ma parve che la provvidenza volesse una seconda volta venire in soccorso dei fiorentini. Quei medesimi venti di Libeccio, che nella fine dell'ottobre passato avevano condotto in Livorno le navi venute da Marsiglia, cominciarono verso il 15 di novembre ad imperversare di nuovo così furiosamente che batterono a terra tutta l'armata veneziana. La capitana Toscana urtò di fianco sulla Rocca Nuova, dove naufragarono gli uomini e le artiglierie, e a fatica poté salvarsi l'imperatore stesso che vi era sopra. Altre due navi corsero la medesima sorte, il resto fu ridotto in stato tale da non poter più servire. Tutti i naufraghi per salvare la vita si arrendevano, onde fu grande il numero di prigionieri che si fece quel giorno a Livorno, e molti in poche ore arricchirono della preda. L'imperatore, stanco finalmente di combattere, come egli stesso diceva, contro a Dio e contro agli uomini, abbandonò con poco onore quella impresa che con tanta poca riflessione aveva cominciata e condotta, né di questa subita risoluzione volle renderne ragione alcuna o anche parlarne, fino a che non fu giunto in Lombardia, dove amaramente si dolse della condotta del duca e dei veneziani, e parve che fino all'ultimo la fortuna volesse essergli nemica, giacché, essendosi nella ritirata una buona mano dei suoi tedeschi uniti a un numero di pisani per assalire il castello di Lari, il commissario fiorentino Alessandro degli Alessandri li fece prima scendere nei fossati e poi con le artiglierie ne ammazzò la più parte. Così fra l'ottobre e il novembre l'avversa fortuna dei fiorentini si mutava in prospera ed essi erano quasi per miracolo liberati da ogni più urgente pericolo. Il 26 novembre il Savonarola, ritornando sul Pergamo, rammentava ai suoi uditori i pericoli per cui erano passati, lo scoramento a cui si erano abbandonati, la misericordia infinita con cui erano stati salvati, e raccomandava a tutti di ringraziare il Signore con vera e viva riconoscenza. Continuava poi facendo di nuovo la storia e l'elogio del governo popolare, paragonava un'altra volta i vari gradi della sua formazione alle sette giornate della creazione, confermava il lume profetico e prometteva di tornare a predicare nel prossimo avvento. Ed infatti ritornò allora e fece le prime otto prediche sopra Ezechiele, nelle quali si vede come egli avesse perduto ogni speranza di tregua o di riconciliazione col Borgia. E in questo modo si chiudeva l'anno 1496. La Repubblica Fiorentina era meravigliosamente uscita da un numero infinito di pericoli. Il nome e l'autorità del Savonarola erano tornati in alto. Il Partito Popolare era una seconda volta padrone assoluto del campo. Ma nel medesimo tempo si era inasprita la lotta con Roma e l'odio del Papa contro al frate e contro al governo da lui creato sembrava essere divenuto inestinguibile. S'erano inoltre nel seno stesso della Repubblica scoperti tanti nemici, tanti e così continui maneggi degli arrabbiati e dei bigi, che il Savonarola stesso credeva essere indispensabile non solamente l'usare molta severità, ma ancora il restringere un poco la forma del Consiglio Maggiore, per non mettere il governo della Repubblica nelle mani di coloro che altro pensiero non avevano se non quello di distruggerla. Né ad altro scopo si valevano della indulgenza verso di loro sin ad ora usata, che a più sicuramente cospirare contro la libertà della patria.